in me. Il nome mio nessun saprà, no, no, sulla sua bocca lo dirò, guardo la luce, splenderà. La letteratura, l'arte, il cinema, il teatro, un omaggio doveroso alla lirica. Grande partecipazione del pubblico, sì. Molta di più che subito dopo la fine di Imagine cantata da Peter Gabriel. Ma sai, questo è un marchio del Made in Italy, è notissimo nel mondo, è stato effettivamente un impatto dirompente, quello del Nessun Dorma di Luciano Pavarotti. Sipario.